America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I might even marry Victor. Oh, perish the thought. Marriage is like a dull meal with a dessert at the beginning. Pay no attention to him, Victor. He's a cynic. He doesn't believe in love. Beh, non credo che abbiate riconosciuto in molti questo passaggio Moulin Rouge del 52, un grande film. Grande film con Zsa Gabor. E dunque voglio partire in questo lunedì con un paio di notizie di cronaca curiose, perché noi parliamo sempre di geopolitica, parliamo dell'economia, però c'è anche un'America del giorno per giorno che celebra anche i suoi grandi protagonisti. Zsa Gabor è morta ieri, avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 6 febbraio, dunque una bellissima età. Beh, un'attrice leggendaria, un sogno americano, perché è nata in Ungheria, è diventata Miss Ungheria, poi si è naturalizzata americana, 9 mariti, tra cui l'ultimo, il principe Frederick von Anhalt, ma era stata sposata anche con Conrad Hilton, il grande magnate degli hotel Hilton, e ha girato film con Orson Welles, con John Huston, Vincent Minnelli, insomma una grande star che secondo me meritava di essere ricordata oggi, come dovremmo ricordare Henry Heimlich, un altro americano, è deceduto anche lui ieri, 96 anni, è il chirurgo che ha inventato questa manovra che porta il suo nome, la Heimlich Maneuver, cioè quando c'è qualcosa che vi si ferma in gola, lui ha inventato questa manovra per cui si deve stringere, si fa dietro una persona, si stringe sotto il diaframma, zacchete! E poi la cosa, l'oggetto oppure il cibo che si è bloccato e che impedisce di respirare viene espulso. La Heimlich Maneuver, ricordatevela, può essere utile perché, pensate, ha salvato la vita a 100.000 persone. On Monday, the 538 members of the Electoral College meet in state capitals across the country to formally elect the next president. Bene, passiamo alla politica. Oggi è la giornata X perché i grandi elettori americani, i famosi 538 grandi elettori, vi ricorderete che il minimo per poter vincere la presidenza era 270 grandi elettori, ebbene i 538 si riuniranno, ciascuno nel suo stato, per votare sul futuro presidente degli Stati Uniti. È chiaro che ognuno è in rappresentanza del candidato cui aveva legato il suo nome, per cui sappiamo che Donald Trump avrà sicuramente la maggioranza, non ci saranno dubbi che i suoi rappresentanti lo voteranno. Dunque una formalità di cui si è anche parlato, perché soprattutto il New York Times ieri mattina diceva ma chissà che non succeda qualcosa, qui la situazione si è complicata, possibile che magari qualcuno, col fatto che Donald Trump non ha vinto la maggioranza del voto popolare, possa magari cambiare idea, perché il voto è espresso da quella singola persona, non è vincolato, deve semplicemente votare per uno dei due candidati. Ecco, naturalmente questo non succederà, posso dirvelo con un certo margine di incertezza, anche se devo dire in questi ultimi tempi fare pronostici sulla politica è molto difficile, ma l'elezione formale di Donald Trump avverrà nella giornata di oggi. Ecco, piccola scia polemica sulla nomina di Tillerson, Rex Tillerson, amministratore delegato all'ExxonMobil, futuro segretario di Stato americano. Beh, sono uscite un po' di indiscrezioni ieri che cercano di creargli un po' di difficoltà in vista delle audizioni che dovrà sostenere al Senato. Un giornale tedesco, Süddeutsche Zeitung, poi ripreso dal Guardian, rivela che Rex Tillerson era consigliere di amministrazione di una joint venture americano-russa che si chiamava Exxon Neftegas, con sede alle Bahamas, che come sappiamo è un noto paradiso fiscale. Però è anche vero che ci sono migliaia e migliaia e migliaia di aziende succursali di società americane che hanno delle succursali basate alle Bahamas, soprattutto per operazioni internazionali, che sono regolarmente denunciate al fisco, tutto avviene alla luce del sole. Dunque qui secondo me la vecchia Europa, perché questa notizia parte dall'Europa, vuole fare un po' la cosa politically correct, ma non hanno capito che qui il vento è cambiato e quindi a voler cercare il pelo nell'uovo alla fine non si conclude un bel nulla. Io non credo, poi mi sbaglierò, ma non credo che questa presenza come consigliere di amministrazione in una società tra l'altro controllata in parte dalla Exxon, una società, una joint venture con la Russia, possa creare dei veri, reali problemi per Rex Tillerson, e ci auguriamo che se dovesse essere approvato possa davvero fare bene il suo lavoro.